a tempo di sport. Buongiorno, ciao a tutti. Cristian Goldoni in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Sentivo prima che l'amico Gianluca Di Marzio da Sky faceva le dirette dal ristorante Giannino, noto covo rossonero. Beato lui, io non ho neanche un panino da offrire qui in via Monterosa al mio amico Massimo Callegari da Mediaset Premium, che oggi è venuto a farmi compagnia. E così rimaniamo in forma. Così rimaniamo asciutti. O ritroviamo la forma dopo i bagordi dell'estate. 800 24 00 24, vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Mi rifiuto per ora di considerarlo campionato. Perché? È uno spottone. Per voi delle TV che, ma giustamente, date un sacco di soldi, col mercato aperto, cosa che trovo abbastanza folle, le prospettive del coito interrotto, 2 settimane di stop per la nazionale, comincerò a pensare al campionato dal 16 settembre, quando si troverà continuità e quando il mercato sarà chiuso e quando magari avremo qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto ieri. Per adesso è polvere di campionato, caro Massimo. Sì, però intanto ci sono tre punti di differenza già tra Juve, Napoli, Inter e Milan, ad esempio. Sì. È campionato questo, fa differenza, eh? Fa differenza perché il Milan... Non è che si azzera poi dal 16 in poi. No, fa differenza perché il Milan peggio di così non poteva essere. La polvere negli occhi dei tifosi rossoneri è stata quella che si è vista ieri a San Siro. Sampdoria che non ha rubato nulla, secondo me, perché ha giocato una partita eccellente, fisica, di facile contenimento nel primo tempo, ha segnato, poi ha lasciato fare un po' di confusione al Milan. Nella confusione la palla non è andata dentro e adesso Galliani è in viaggio, pare in viaggio per voli della speranza, non so se a Lourdes, Medjugorje o Madrid, mi sembra. Ma sembra più in Francia adesso, non so se lui sì, direttamente o insomma per Mbaye Niang. Sì, non credo che sia un giocatore chi è costui? Può modificare la struttura del Milan, soprattutto per il reparto principalmente che ne ha bisogno, che mi sembra sia la difesa, al di là del fatto che il Milan ieri ha creato poco, però gli aspetti veramente preoccupanti sono che la squadra ha una qualità tecnica decisamente inferiore rispetto all'anno scorso e agli ultimi anni, si sapeva. Ha una qualità generale di esperienza, di carisma all'interno del gruppo inferiore, si sapeva. Cosa si può fare per avere qualcosa comunque di positivo in campo senza queste basi? Correre, a giocare su ritmi diversi e avere delle soluzioni di gioco di squadra che ieri non si sono viste. Milan non mi sembra, non è una squadra giovane. Non è una squadra fresca, non è una squadra che corre, non è una squadra che ha talento. Sotto la maglia del club più titolato al mondo, secondo me, attualmente niente. Sì, forse è la squadra peggiore degli ultimi 25 anni. Sì, sì. Dal punto di vista dell'organico, della qualità individuale, dell'entusiasmo all'interno dell'ambiente. Sì. Delle dinamiche tra società e allenatore. Dinamiche tra società e allenatore. Mi ricorda certe storie con Zaccheroni, con Terim, con Tabarez. Pensi che Allegri possa fare la stessa fine, visto che è un ostinato e intransigente disobbediente che forse a Berlusconi non piace più tanto. Beh, però la sua disobbedienza è stata decisiva in questi anni, nel bene in alcuni aspetti, cioè nel non transigere più nella gestione di certi atteggiamenti. Capolavoro quando ha fatto fuori Ronaldinho, capolavoro, no? Esempio, poi in altri meno, perché comunque la gestione di Pirlo è stata prima di tutto un'operazione economica da parte del Milan, cioè intesa come un risparmio economico, poi però anche una valutazione tecnica che ora viene cancellata dal fatto che ieri ha giocato Montolivo, che si è adattato a fare quello che faceva Pirlo molto meno bene di quanto l'abbia fatto Pirlo, dopo che per un anno c'è stato Van Bommel, che è tutto un altro giocatore. Adesso forse Diarra, che è ancora tutto un altro giocatore. Insomma, non c'è una progettualità. Questo credo sia il vero problema. Cioè, quello che mi sembra di aver capito tante volte anche qui, gli ascoltatori hanno detto anche durante l'estate, cioè un tifoso di qualsiasi squadra, soprattutto che ha vinto molto in vari cicli negli ultimi anni, accetta o accetterebbe di fare qualche anno senza grandi risultati o senza risultati però costruendo qualcosa. Ma certo. È diverso rispetto a non avere risultati e non avere un'idea di futuro, una linea difensiva di ottuagenari come aveva ieri il Milan. Sì, e che non passi adesso il concetto che per fortuna, o quasi quasi meglio che il Milan ha perso ieri, così si è reso conto che deve cambiare qualcosa, no? Se avesse pareggiato sarebbe poi passato come così, beh insomma la squadra basta poco, no? Sì, no. Se adesso Galliani è alla ricerca dell'oppio da dare al calcistico, da dare al popolo, che possibilmente non costi nulla. Sì, costi ma credo poco che, o preferibilmente nulla. Sì, ma credo che il popolo non abbia né bisogno né riceva questo oppio in maniera automatica, passiva. Sentiamo un Allegri a caso di ieri. Due anni che sento sempre gli stessi discorsi. Quando, con tutto il rispetto di Andrea Pirlo, e lo ripeto per l'ennesima volta, è un campione, perché un anno e mezzo fa, quando il Milan ha vinto lo scudetto, Andrea Pirlo non giocava, non mi dicevate perché non gioca Andrea Pirlo? Andiamo avanti. Montolivo in questo momento gioca davanti alla difesa perché Ambrosini, i due, l'alter ego di Ambrosini davanti alla difesa, e Montolivo. Muntari è un altro che può giocare davanti alla difesa, è infortunato, e è normale che ci mancano dei giocatori che sono importanti. 800 24 00 24, un numero verde, altri giocatori che sono importanti, che sono quelli che magari nei sogni di Allegri sono quelli. A me sembrano tutti diversi, però Montolivo, Ambrosini, Muntari completamente diversi. Ma certo, non ce n'è uno uguale all'altro. Gianni dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Capisco che se un giocatore non vuole più esserci in una squadra è giusto cederlo. Sì, di chi stiamo parlando? Sì, però mi sente? Sì, che la sento. Mi riferisco a Cassano Pazzini. Sì. Quello che non ho capito, e vorrei un suo parere, come mai il Milan ha dato via Cassano più 7 milioni e mezzo, se non ricordo male, per avere Pazzini? Per me è una cosa assurda. Era l'Inter semmai che doveva dar qualcosa al Milan. Mi può dare un suo parere? Un mio parere non ce l'ho su un affare di mercato. Cassano ha un valore di mercato pari a zero, mi pare, guadagna 3 milioni netti l'anno. Pazzini guadagna qualcosa di meno, ha qualche anno in meno. Sì, credo ci fosse anche un discorso di plusvalenze reciproche, di valori, esatto, che erano stati dati ai giocatori quando l'Inter acquistò Pazzini valutando tantissimo Bebiani, cedendolo alla Samp, no. Il Milan acquistò Cassano a zero, quindi insomma anche questo è da considerare. Cassano a zero ormai da anni. Però all'inizio conquista tutti. L'ultimo che l'ha pagato è stato il solito Real sì, Madrid. Sì, sì. All'inizio conquista tutti però, Sì, conquista tutti, e prima sentivamo qua sotto anche qualche tifoso interista con enorme entusiasmo. Ho visto tratti di Barcellona. Addirittura. Ho sentito questa frase ieri a Pescara, che mi sembra al momento una delle squadre più deboli delle tante deboli. Ieri Stramaccioni subito ha fatto l'incantatore di serpenti. Quest'anno crediamo in Coutinho, ci crediamo. Arriva Cassano, ma sono al 50%, sì, no, vabbè, gioca Cassano, Coutinho in fondo alla panchina. Però, insomma, ci stava... Però all'occhio sveglio quell'allenatore lì, All'occhio sveglio. Vedi, abbraccia Cassano. Mica adesso. Non ho ancora capito, l'ho già detto, se assomiglia di più a Mister Bino o a Mourinho. Fisicamente, Ah, ok. Ciro da Napoli. Pronto? Ciao Massimo, innanzitutto volevo farti i complimenti, sei bravissimo, ti seguo sempre su Premium. Grazie. Prego, volevo farti una domanda, siccome diciamo da tifoso napoletano abbiamo ancora, io come tanti, abbiamo ancora l'amaro in bocca per la finale di Supercoppa italiana, per come è andata a finire, e alla luce anche del fatto di dell'arbitraggio un po' dubbio che c'è stato in Juve-Parma, volevo capire secondo te questo campionato se potrebbe essere regolare. No, se è regolare, se purtroppo ci saranno ancora episodi come quello magari sul gol di Muntari dell'anno scorso, insomma tutti quegli episodi che fanno male al calcio italiano e che come ben sai poi ci fanno una cattivissima pubblicità anche all'estero. Ciro, ma il gol di Pirlo era gol o no? Allora, il discorso del gol di Pirlo penso che solo nostro signore possa sapere se era gol o no, perché da tutte le visuali è normale, il tifoso juventino farà il photoframe dove sembrava più dentro, gli altri tifosi evidenzieranno un altro photoframe. Io le dico, non essendo tifoso, e glielo assicuro, né della Juventus né del Parma in questo caso, l'ho visto dentro dopo vari photoframe, e dico che bravissimo è stato giudice di porta, quindi secondo me. Quindi derubrichiamo dall'ipotesi di errore questo questo episodio. Poi capisco i tifosi del Napoli avvelenati per quella assurda e orribile finale di Supercoppa italiana. Siamo già alle polemiche arbitrali, caro Massimo Calegari, sull'asse Napoli-Torino. Sì, fortuna che poi Zeman è stato bravo ieri e non ci ha messo il carico anche lui, perché ci aveva messo il giorno qualche prima. Diritto, sì, no, però dico, qualche diritto poteva averlo anche ieri dopo la partita, per il gol soprattutto del vantaggio del Catania, che è evidentemente irregolare. Poi il secondo si può più discutere, insomma. Sì, a proposito della Roma, di Zemaniano ieri si sono visti più che altri buchi. La fase difensiva, sì, però credo fosse abbastanza prevedibile, insomma, avendo giocatori nuovi, avendo lavorato molto sui carichi nel corso dell'estate e dovendo integrare Totti in un sistema di gioco in cui dovrà interpretare, no? Più che esprimersi come faceva Insigne, come faceva Signori, come faceva, insomma, chiaramente lo farà, o come lo faceva lui ai tempi, e dovrà farlo in maniera diversa. Ieri Zeman già ha detto deve stare un po' più 15 metri dentro il campo invece che partire così largo, quindi... altrimenti lo mette 15 metri fuori. Dal campo, sì. e poi li ridiamo. No, il calcio di Zeman richiede integralismo, secondo me, richiede comeinismo, richiede applicazione, dedizione totale, fiducia totale alla causa zemaniana. E secondo te non c'è lì? Boh. Devo ancora convincermi. Sì, no, beh, penso che poi i risultati faranno parecchio, farà l'entusiasmo. Ecco. Io credo che, siccome sulle squadre, sul gioco di Zeman si parla sempre appunto solo da un punto di vista tecnico e tattico, però anche la parte, la componente psicologica, di mentalità, di entusiasmo, di delusione, disillusione, incideranno e lo saranno ancora di più in una piazza come Roma e in una fase della carriera ormai decisiva e conclusiva di Zeman. Cioè lui dice: io non sento peso, non sento pressione per essere tornato a Roma e avere tutte queste aspettative, però è chiaro che se la Roma dovesse partire bene e partirà bene, il campionato potrebbe prendere una certa piega. Se la Roma dovesse perdere domenica ed essere a meno 5 dall'Inter e chissà anche magari dalla Juve, dal Napoli eccetera, dopo due giornate è tutto diverso. Ce l'abbiamo uno Zeman da sentire? Nell'insieme penso che non è stata una grande partita da parte nostra, specialmente prima mezz'ora. Abbiamo giocato, penso, al contrario, nel senso troppo lenti, non eravamo aggressivi, non siamo ripartiti mai e giocavamo solo sul possesso, sbilanciandosi e offrendo qualche spazio all'avversario. Anche se poi magari dispiace che abbiamo preso il primo gol su fuorigioco, però non influisce sulla prestazione, che non mi è piaciuta. Sottolineando il primo gol in fuorigioco, ma giustamente, perché questa è cronaca. Filippo, provincia di Varese. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono un tifoso milanista di vecchia data, quindi riferendomi alla squadra peggiore degli ultimi anni, ma ne abbiamo viste di squadre forse di peggiore rispetto a queste. Io ricordo in difesa Bogard, Reitzinger, insomma, ricordo Blissett in attacco, Atle, insomma, una squadra peggiore secondo me l'abbiamo vissuta. Ci vuole pazienza. Guardi, io non condivido le modalità comunicative che ha deciso di adottare il Milan, decidendo di vendere tutti senza magari nessun tipo di progetto, non comunicando ai tifosi, insomma, discorsi che ho già sentito anche a questa radio. Però credo che l'unico mio dubbio è che spero, anzi, che Allegri riesca a lavorare. Riesco a lavorare con serenità, perché credo che è logico che noi non lotteremo per lo scudetto e nemmeno per, ovviamente, per la Champions. Sì, però Filippo, non si lotterà neanche per la ricostruzione di qualcosa, perché non c'è materiale sul quale costruire qualcosa, ed è questo, credo, il punto del discorso, perché il Milan è una squadra che andava pian piano rinnovata, svecchiata, quest'anno via tutta la vecchia guardia, e mi domando chi sia in questo momento, anche, e lo chiedo a voi, lo chiedo a Massimo Calegari, in questo momento chi comanda nello spogliatoio del Milan? Chi è il leader? Chi detta le regole? Perché sappiamo che in ogni spogliatoio una leadership ci vuole. Quelli che avevano leadership sono andati via tutti. Allora questo è un altro tipo di discorso. Non vedo materiale su cui ricostruire, Filippo. Ha ragione, io ragiono da tifoso, ma da tifoso, diciamo, tranquillo, nel senso, spero le cose si sistemino e vadano per, ripeto, però l'importante è che credo che Allegri in questo momento sia in difficoltà e spero che lo lasciano lavorare, perché la cosa peggiore sarà cambiare poi allenatore in corso di, e vedrà che se i risultati saranno così negativi non... Beh, insomma, io prima ho citato qualche esempio. Sì, di... anche gli allenatori vanno pagati, attenzione. Allegri sì. Già prende 2,5 milioni, rinnovato l'anno scorso, insomma, quindi anche certo. Quello è un aspetto che viene considerato a quel punto, no? Poi si dice, poi dopo è chiaro che le situazioni cambiano, cioè Moratti per 2 anni non ha speso nulla, poi... Si va a una situazione ecco, alla Stramaccioni. Sì, però, insomma... No? È da vedere, è il concetto anche della leadership all'interno del gruppo è vero, cioè Allegri pensa giustamente di poter dover essere lui il leader, però anche le grandi squadre che hanno o hanno avuto leader in panchina, penso in Italia, a Conte di recente, a Mourinho prima, penso a Guardiola, però in campo, sì, nello spogliatoio, i riferimenti ci sono sempre. I riferimenti ci sono nella sempre. Nella Juve c'è Pirlo, c'è Buffon, nel Real ci sono il gruppo della Nazionale, ci sono i portoghesi, nell'Inter c'erano... e tu e altri, insomma. Sì, poi parliamo anche di Reale. Malissimo, eh? Porca miseria. Mourinho si è arrabbiato un pochino, ma anche Carletto Ancelotti non se la passa granché bene, e poi sentiamo pure Ibrahimovic che non è preoccupato, tanto lui che gliene frega. Alessandro da Roma. Sì, buongiorno, la mia buongiorno. Domanda è molto veloce, spero che mi sentiate perché io non mi sento benissimo. Io volevo sapere, diciamo, avere una risposta quasi tecnica su per quale anomalia un giocatore come Mauri, che se non sbaglio è stato indagato e forse, se non vado errato, ha passato anche qualche giorno in prigione per questa cosa, sta giocando normalmente in una scuola di calcio. Delle due una, o non ha fatto niente e quindi l'hanno sbagliato prima, oppure non vedo il motivo per cui stia giocando normalmente nel campionato di calcio come se non fosse successo niente. Perché la risposta più tecnica che si può dare è che non è stato squalificato. Ma come mai non è stato squalificato? Visto che un allenatore è stato squalificato per 10 mesi e non può allenare, e un giocatore invece può giocare a pallone normalmente. Era questa la... Sì, devo dire che ce lo siamo chiesti anche noi ieri. Cioè, vedendolo in campo, poi io mi fermo, nel senso che poi non nei dettagli... Nel corso dell'estate non ho seguito il singolo e specifico caso in maniera così attenta da poter andare oltre, però effettivamente, insomma, rispetto ad altri che sono stati all'interno delle inchieste, come ad esempio Bonucci, come Cricito, che poi hanno avuto sviluppi diversi, eccetera, qui c'è stato un provvedimento ben diverso come l'arresto e quindi, insomma... credo che questa sia una valutazione e una domanda che ci siamo fatti in tanti, in attesa che venga poi dato un o gli hanno detto una parola fine, signor Mauri, questa, no? Ci siamo sbagliati, ma e comunque di fatto non è stato squalificato e dunque può andare in campo. A torto, a ragione, naturalmente, questo poi lo scopriremo, perché credo che non sia ancora finita qui. Franco Rimini, buongiorno. Ciao a tutti. Dunque, buongiorno. Pensiero anche sul Milan. Il Milan, io sono milanista, 50 anni, quindi non penso riguardo il Milan. Il Milan è stato una grossa crisi economica, e lo dimostrano gli acquisti che ha fatto, non c'è ricostruzione, e lo dicono i fatti, non si può scegliere due centrali come Nesta e come Thiago in un anno, cioè questo è Kurt, è stato un grandissimo giocatore contro il fianco Barbaresi. Sì. Il grande giocatore centrale è quello che ha il campione, quello che legge l'azione, certo. Un secondo prima degli altri, esatto. E quindi dà i movimenti. Quindi uno posso aggiungere, mi permette di aggiungere che la fortuna di Lucio è stato Samuel, mi permetta di aggiungere che il grande campione è quello che migliora il rendimento di chi gli sta vicino. Il grande campione, Jespers, per esempio, è un ottimo giocatore, è anche del carattere, però gli manca forse la lettura. Allora, cedere due centrali come Nesta, perché decide di farla finita col calcio che conta, che è una scelta, e ma cedere lo stesso anno, per questioni economiche, l'altro giocatore che è Thiago, e ricostruire tutta la linea centrale, cioè le due centrali di una difesa in 2-4, questo vuol dire completamente essere allo sbando, come vedo io, fare ragionamenti economici e basta, se no non puoi cedere Thiago, perché uno sì, ma due sono troppi. Poi Ibrahimovic mi sta bene, lo conosciamo, non è una novità, cambia squadra tutti gli anni. Il Pazzini è uno che la butta dentro di testa, non certo diciamo i gol di testa alla Inzaghi, con chi lo facciamo, con Sarri, non penso proprio. Quindi questo è un ridimensionamento economico del Milan. Al momento, come diceva prima lei, non c'è ricostruzione, certo. eccessivamente un vivere, vivremo un campionato di mezza tentativo di tentativo di mantenimento di limitare i danni, credo che limitare i danni, poi lo succede avrei un paio o due anni, ma boh, vedremo tra uno o due anni chi ci vede, chi ci arriva, non lo so, non so neanche quali Allegri? Siano i piani, no, non Allegri, non posso sapere quali siano i piani della proprietà, no, vabbè, in questo momento. Questo lei vede che io non vedo ricostruzione quest'anno. No, ma no, non la vederei perché non la vede perché non c'è. Questo mi sembra. È una questione di cassa, se no si vende Thiago Silva, mi scusi. No, cioè, ma è una questione di grano, ma l'ha detto giusto, l'ha detto giusto lei. Franco, la interrompo perché sono molti gli ascoltatori. Io volevo sentire Donato dalla provincia di Frosinone che ha qualcosa di particolare da dirmi, o forse da cantarmi, non lo so. Donato? Salve, sì, sono in ascolto. Sì, è in ascolto. Allora, lei... Io sono un cantautore di Cassino. Un cantautore, sì. E ho conosciuto lo chef di Berlusconi, sì. Perché è di un paese proprio confinante con Cassino, Sant'Elia, Fiume Rapido. E me l'hanno presentato, io siccome mi diletto a scrivere, oltre le mie canzoni classiche da cantautore, scrivo anche inni di calcio. Sì. Fatto per il Mantova, per tante squadre. Sì. E allora mi ha detto questo signore, questo chef, ha detto: perché non mi fai un inno per il Milan? E ha detto: ci provo. E l'ho scritto, volevo fargli una sorpresa, magari sei in ascolto. Boh, me lo faccio sentire un pezzettino. Un accenno, una strofetta, veloce. Allora. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, c'è una squadra che ti prende, spende fiato e non si arrende. Forza Milan, ma che ragazzi in gamba! questa è solo la prima strofa. Donato, complimenti, grazie, chissà che questo non possa tirar su almeno un millimetro l'umore pop, dei tifosi. È pop questo, eh? Pop, questo è pop, sì. pop spinto. Duro. Grazie Donato da Frosinone. Dopo la tarantella rossonera, in attesa di parlare con Alessandro Roberto Gigi, ascoltatori già in linea, 800 24 00 24, numero verde. A proposito, da lunedì prossimo anche noi avremo nuove musiche, tarantelle. Sì, no, tarantelle no. Avremo una confezione un po' diversa di questo programma sportivo, non dico altro, anche perché non lo so. Abbiamo qui Massimo Callegari, cui vorrei dire che anche Mourinho non se l'è passata benissimo ieri, 2-1 con il Getafe, e non mi sembra che abbia cercato grosse scuse, sentiamolo. Vittoria merestita del Getafe, mi dicono los jugadores che... que o segundo gol que é as mãos de Colunga, mas me dá igual porque gol com a mão ou gol sem a mão, a vitória do Getafe é merecida. Vitória merecida porque o Real Madrid ha estado muito mal, um partido, em minha opinião, inaceitável. De minha parte não tem nenhuma palavra, nenhuma. Entrei no vestuário, me marchei do vestuário, nenhuma palavra. A única coisa que eu quero que eles saquem é minha mensagem inicial, derrota merecida. Más que vittoria merecida del Getafe, io dico derrota merecida nostra. Sembrava il caso della traduzione, perfettamente comprensibile, Mourinho, sì, in spagnolo. Sconfitta meritata più che vittoria meritata del Getafe. Sì, gol con la mano, poi però fa niente. Ma fa niente. Me l'hanno detto i giocatori, io non l'ho visto, però. Tanto oggi ho preso Modric. Sì, per 35 più 7 di bonus, 42 milioni di euro. Mica paglia. No, mi sembra tantissimo. E l'arrivo di Modric... Poi tantissimo, anche 40 per Hazard del Chelsea, sì. Spesi molto bene. Sì. Secondo me 25 erano più che sufficienti, come per Modric. Poi se i soldi che girano in Inghilterra sono quelli, o in Spagna... Modric va, insomma... Dà più dinamismo, un po' più di tecnica ancora a centrocampo, rispetto a Khedira, di fianco a Xabi Alonso, qualcosa di diverso anche magari nel modo di giocare, con tre centrocampisti... Rispetto a loro, Sì, più offensivo, più dinamico, insomma, più tecnico in un certo senso rispetto a Khedira. Quello che ti voglio far dire è che Kaká serve sempre di meno. No, Kaká non serve più, ma non serve neanche al Milan e non serve neanche a lui venire al Milan. Se lui ha l'obiettivo, secondo me, complicatissimo da raggiungere, vedendo il modo in cui sta giocando il Brasile e vedendo i giocatori che ci sono in rosa nel Brasile attuale, di arrivare al 2014, l'unica possibilità che può avere è andare in Brasile, anche perché, l'ho detto chiaramente Mourinho, non ci sono arrivate richieste, sia perché lui ha un ingaggio altissimo, poi lui magari si accetterebbe per venire a Milan, sentimento, eccetera, eccetera, di abbassarsi l'ingaggio. Da altre parti forse no. Però l'unica possibilità che lui ha è andare in Brasile, in una squadra di buon livello, in un calcio che è leggermente, anzi forse qualcosa di più che leggermente, migliorato e più dinamico rispetto a qualche anno fa, quindi comunque è probante, è seguito, sarebbe seguito settimanalmente dal CT, dallo staff tecnico del Brasile, allora lì può forse recuperare un po' di margine, ma venendo a Milan è complicatissimo per lui, certo. Anche perché bisogna avere qualcuno con cui parlare la stessa lingua, no? Calcistica, e nel Milan in questo momento ce ne sono pochi, c'è Robinho, sì, c'è Robinho che ieri è stato un episodio nella... Sì, se mi ha ricordato un po', ti ricordi il primo derby di Leonardo con Gattuso che chiede il cambio perché è stanco, Seedorf che ha le ciabatte in panchina e poi Gattuso è espulso, più o meno, Più o meno, però, se Robinho è stato fesso, Allegri dormiva, perché si è toccato la coscia... Però in quel momento lì, se chiedi a un giocatore come stai, il giocatore deve essere, secondo me, il primo a dirti no, aspetta un attimo, provo, oppure esco un attimo, cosa dice il medico, cosa sente... Poi insomma. C'è giocatore. Sì. Alessandro, Bologna. Buongiorno, gente. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Dunque... erano 12 minuti che aspettavo in linea, ma non è affatto un rimprovero, e lo dico senza ironia, a parte che vi ascoltavo piacevolmente, ma è il tempo minimo per riprendermi dalla proposta di nuovo inno per il Milan. Sto cominciando a ritrovare la ragione, ma ancora non del tutto. No, due cose rapide. Prima, l'ascoltatore di Napoli che ha chiamato... Forse punta già al premio faccia tosta 2012, perché almeno scegliere un po' strategicamente la giornata giusta. Juventus-Parma, non è successo nulla che abbia alterato, perché il rigore sbagliato, il gol c'era, eccetera. Mentre Palermo-Napoli, non dico che abbia cambiato l'andamento della gara, assolutamente no, però quando punteggio ancora in equilibrio, c'è un calcio di rigore così clamoroso negato al Palermo. Almeno però se calza che secondo me non è rigore. Perché lui calcia, e poi è l'unico che non si lamenta, quello che subisce il fallo. Comunque, opinabile, l'ho visto. Comunque, insomma, mi sembra che a Napoli sia un po' di, non so se per invidia, per inferiorità, un po' di paranoia. Con toni diversi siamo al ping pong, Io glielo faccio sì, notare no, infatti, da giudice infatti, arbitro. Infatti ho chiamato come Pong, non come Ping, non sarei stato il primo a chiamare, ma da Napoli, anche Mazzarri, insomma, mi sembra che stiano un po' esagerando. Mi sembra che stiano esagerando in tanti, Alessandro. Sì, no, ma è verissimo, però insomma... Se la guardiamo con un po' di disincanto la settimana passato, le vere gonfie di Conte, Cassano con Galliani... Cassano è un caso... Ma van bene tutti, con occhio un po' ironico ci si può anche divertire, altrimenti... Conte è coinvolto personalmente, insomma, una cosa diversa. Sì. Poi, vabbè. Comunque, no, a parte questo, dicevo, secondo voi, siccome in effetti secondo la Juventus probabilmente manca un altro attaccante di peso o alternativo, possibilmente anche più, come dire, con percentuali maggiori di gol di Matri, almeno dell'ultimo Matri, secondo voi come tipo di giocatore... così diciamo sogni a parte se è più adatto Llorente o Dzeko o chi sia, appunto tenendo senza dubbio sono tutti giocatori molto diversi. Io non ce li avrò mai 1.000 lire al mese, 1.000 lire al giorno, 1 miliardo al mese, avessi dei soldi in tasca e fossi il dirigente di una squadra di calcio, andrei a Firenze e tenterei di rapire Jovetic in questo momento, non c'è dubbio. Ma questo Llorente, che costa moltissimo, non capisco chi sia. Poi C'è anche vabbè, il fatto ha grandi che... qualità, però ha 28 vabbè, anni appunto. E se l'ipotesi è di un quadriennale a 3,5, considerando anche la storia che non ha sempre un senso, soldi. Però gli spagnoli in Italia hanno continuato ad avere sempre difficoltà, se per caso faticasse a inserirsi, secondo me può fare molto bene, ma se faticasse a inserirsi nel calcio italiano, poi sarebbe complicatissimo. Rivenderlo e trovare acquirenti, insomma, poi a 28 anni. Ma poi sai, secondo me Massimo, questa storia del top player della Juventus sta diventando un po' pelosa, perché non c'è un giocatore che possa dare in questo momento, per ovviamente con i prezzi che ci sono, che possa far fare da solo un salto di qualità totale alla Juventus, nel senso di proporla come squadra da livello europeo. Per quanto riguarda l'orto interno, io credo che la Juventus sia totalmente inavvicinabile, nonostante i grandi entusiasmi, certo, oggi dell'Inter e del Napoli. Quindi può benissimo andare avanti, sì, così. A me risulta che a inizio estate a Firenze, all'interno del club, avessero la piena consapevolezza di vendere Jovetic entro la fine del mercato. Se hanno cambiato idea adesso, o se stanno cercando di mettere il giocatore nelle condizioni di dire sono io che vado e tradisco Firenze, non lo so. Tanto sto leggendo che c'è un brusco stop nella trattativa. Adesso Roberto da provincia di Foggia, stia lì, che le do subito la palla. Allora, leggo dalle agenzie, brusco stop nell'affare eventuale del ritorno di Kakà al Milan, con la formula del prestito che peraltro il Real Madrid non accetterebbe. Lo scenario sta mutando e potrebbe evolvere questo punto negativo per i rossoneri, perché c'è un parere negativo da parte del fiscalista rossonero e quindi fermi tutti e teniamoci l'inno di prima. Roberto. Moderno, fresco. Roberto? Sì, ecco. Salve. Salve, dica. Salve. Volevo cercare, provare a dare una soluzione al caso Mauri, cioè a dare una spiegazione del perché lui ha giocato. Io credo che sia riconducibile al doppio filone di indagini, giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Cioè, per la giustizia ordinaria lui è stato indagato ed arrestato per un reato proprio penale, mentre ho dei dubbi se lui sia stato anche deferito dalla giustizia sportiva. Io credo forse, io parlo diciamo non con la certezza, ma credo che possa essere questa la motivazione. Ma guardi, la certezza sarà il caso di farla, perché se andiamo per tentativi mi sembra complicato. No, ma così possiamo immaginare molte cose. Il discorso è che Mauri non ha nessuna squalifica pendente e dunque può giocare. Poi le ragioni io sinceramente le ho perse nel marasma di questa estate facilmente dimenticabile. Quindi avete capito, questa mattina Galliani è alzato presto, è andato dal fiscalista e gli ha detto: ma scusa, se prendiamo Kakà in prestito, il fiscalista gli ha detto: guarda, meglio di no, stasera era in programma un incontro tra Florentino Perez ed Ernesto Bronzetti, ma pare congelato anche quello insieme alle aspettative dei tifosi del Milan. Aldo. Quindi Kakà al parco del Buon Ritiro tutto l'anno. No? Kakà in tribuna al Real Madrid. Del resto devo dire, poi lasciamo spazio agli ascoltatori. Oppure a lavorare col fiscalista nello studio, se lo prendo. No, quello non se lo merita. Però da punto di vista proprio tecnico e del giocatore, di quello che è stato e di quello che è, quando lui ha avuto la possibilità l'anno scorso di dare una svolta alla sua stagione, a quella del Real Madrid, al suo rapporto con Mourinho e ancora alla sua carriera, è stato nella semifinale di ritorno con il Bayern Monaco, quando lui è entrato dopo le difficoltà che aveva avuto la squadra a un certo punto dopo il gol dell'1-2 del Bayern Monaco, però non ha dato nulla alla squadra in quel momento, e quella era la sua grandissima possibilità per far vedere che aveva ancora un po' di cambio di ritmo, un po' di capacità, un po' di intensità. Sì, di... Anche un giocatore cui devi dare non puoi totale dare fiducia. L'occasione spot o la va o la spacca, certo. perché non è certo, nemmeno giusto. Aldo, Vicenza. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, no, mi avete già preceduto, comunque, non era meglio tra Juventus puntare su Destro, magari tenersi Immobile, che avere Matri e Quagliarella, che non si sa se vanno, se non vanno, almeno lanciare qualche giovane, insomma. Voi cosa ne dite? Mm, Ma io dico che Matri sia un po' sottovalutato dagli stessi tifosi juventini, è un giocatore funzionale al gioco della Juventus. Non ma è soprattutto un, non da Conte crack... non è apprezzato in toto. Non è apprezzato in toto, però sai quello che ti può dare. Cioè, Insigne, Destro, eccetera, sono giocatori su cui puntiamo molto tutti quanti, tutti insieme in coro. Sì, poi tu dici non li abbiamo mai visti all'opera su Massimo, grandi palcoscenici, cioè, no, è vero. Stiamo fantasticando su questi giocatori. Ci auguriamo che le fantasie un giorno corrispondano a delle realtà, però per le grandi squadre più delle scommesse serve l'affidabilità. E Matri mi sembra, al di là dei rapporti con Conte, un giocatore affidabile, un giocatore che il suo te lo dà sempre. Sì, però se puoi spendere vai sull'affidabilità, se hai un po' meno da spendere devi anche un po' scommettere con criterio e con cognizione di causa. Destro avrebbe dato questo tipo di profilo alla Juventus, all'investimento della Juventus. Poi c'è anche la linea che secondo me giustamente anche ha descritto Arrigo Sacchi qualche giorno fa sulla Gazzetta, cioè c'era un budget, quella era la necessità, tutto il budget andava investito su quel tipo di giocatore, Cavani, Jovetic, quel tipo di giocatore. Mentre sono stati spesi parecchi soldi per due grandi acquisti, secondo me, anche come Isla Samoa, grandissimi, perché Isla sarà ancora più produttivo ed efficace di Samoa a lungo termine, credo. Due giocatori che mi piacciono da impazzire, quindi possiamo discutere su questo concetto, cioè sul investire tutto su una superstar, che poi quale può essere la superstar? Van Persie a 31 anni o Llorente o... Qual è questo giocatore? Jovetic e Cavani erano i nomi. Jovetic e Cavani, d'accordo, però la Juventus ha scelto la linea forse della lungimiranza, irrobustendo una squadra che comunque in Italia secondo me non ha rivali. Gigi Bergamo. Gigi? Sì, pronto. Anche lei basito dall'inno del Milan? No, per l'amor di Dio, è come Superman per me il Milan. No, niente, volevo solo dire che purtroppo il mio amico di Bologna mi ha già preceduto con una domanda che devo fare riguardo a tifoso del Napoli, no, eccetera. Continuiamo col ping pong. Niente, volevo solamente dire, ma la Juventus forse non è meglio che prenda anche Armero, che fine ha fatto, visto che sembrava che arrivava a momenti. Armero arriverà a momenti da qualche altra parte l'anno prossimo, perché quest'anno Pozzo fa i conti e la prossima cassaforte secondo me saranno Armero e Benatia. È possibile. Facciamo così, li tiene ancora un anno, l'anno prossimo sul mercato, esattamente come capiterà con Cavani per il Napoli. Adesso Michele mi mangia. È possibile, però. O no, Michele? Cioè, è possibile che ti mangi, ma è possibile che sia vero quello che hai detto. No, Gigi da Bergamo, abbiamo risposto. Michele da Napoli. Buongiorno. Vi chiamavo per farvi una domanda, sì. E anche poi di conseguenza una riflessione. Secondo voi il Napoli è più forte o meno dell'anno scorso? La riflessione? No, è un trabocchetto. È un trabocchetto che ci aspetta lì alla scena. La riflessione conseguente è, visto che secondo me il Napoli è meno forte, e invece i giornalisti... Mi scusi un secondo. Visto che i giornalisti invece ne parlano come di una squadra che potrebbe lottare per le prime posizioni, il Napoli l'anno scorso ha raggiunto il quarto posto essendo più forte. Non credete che così legittimate De Laurentiis, il nostro presidente, a parlare bene intanto a vendere i giocatori? Ma mi sembra che la politica di De Laurentiis sia molto precisa, l'ha spiegata con l'affare Lavezzi. L'affare Lavezzi avrebbe avuto un senso se poi quei soldi che si sono risparmiati avendo già in casa sono stati reinvestiti su un grande difensore, su un esterno a sinistra che non sono arrivati. È arrivato Gamberini, che farà il vice di Campagnaro, che con tutto il rispetto non è un campione. È arrivato Berani. Però secondo me Napoli è simile all'anno scorso. La perplessità che ho, non credo sia né più forte né più debole, ti dico questo, Massimo Callegari. Credo però che abbia raggiunto forse il top delle sue possibilità. Non lo so, io credo che intanto l'Udinese si è da verificare se è allo stesso livello dell'anno scorso, perché tutto è relativo, cioè il Napoli può essere più o meno inferiore all'anno scorso rispetto alla sua squadra, però le avversarie, il Milan sicuramente si è indebolito, l'Udinese sicuramente non si è rinforzata, almeno ha cambiato, ci fidiamo ciecamente di Muriel, di Michael Suell e degli altri, però va rivista e non tutti gli anni sono uguali. Questo innanzitutto. È una squadra, il Napoli, che ha più alternative, secondo me, rispetto all'anno scorso, qualcosina in più, perché Vargas ha qualche mese in più, perché Insigne ha delle ottime prospettive, quindi io credo che sia molto competitivo, poi più o meno dell'anno scorso dipenderà. L'anno scorso c'era la Champions, che ha portato via tantissimo a questa squadra, con un girone terribile che tutti pensavamo fosse impossibile, e invece non lo è stato per il Napoli. Quest'anno c'è l'Europa League, speriamo che Mazzarri non inizi a dire a ottobre che ha giocato il giovedì, e che quindi è un problema, perché poi oppure che comincia a far giocare la primavera giovedì, e lo stesso vale per Stramaccioni e per Petkovic, per tutti gli altri, ecco. Per tutti gli altri, perché è un trend che io detesto. Io ho la sensazione invece che il Napoli puntasse molto su Vargas, che tu mi avevi detto era un grande giocatore, con grandi prospettive, sì. Ti hanno ascoltato, tutti dicevano il Napoli ha fatto un grande colpo, ecco, dopo l'Avezzi questo non si è mai visto, sentivo anche voci però ieri, quando è entrato, nelle condizioni di partita in cui lui sa esprimere le sue potenzialità, cioè con la squadra in vantaggio e gli altri che concedono spazi, ha fatto l'assist a Cavani e ha dimostrato di sentirsi più a suo agio. L'anno scorso ha giocato contro il Cesena 10 davanti all'area in Coppa Italia, e in altre partite in cui il Napoli doveva recuperare. Sì, scusa, però siamo gli specialisti. Allora, questo va bene quando sto vincendo e ci sono gli spazi. Se vuoi giocatori universali, sono così tanti in giro. Mi viene in mente il basket. Poi possiamo discutere su quanto è stato pagato. Esatto. Ecco. E possiamo discutere anche sul fatto che Mazzarri non fosse così entusiasta di averlo. Lo dimostra il fatto che ieri Insigne ha giocato subito, Vargas ci ha messo mesi a giocare. Certo. Andiamo di corsa perché abbiamo ancora un paio di minuti, due ascoltatori, Giancarlo da Siena subito, poi Pierluigi da Rimini, dica. Pronto? Pronto Giancarlo, dica. Sì, buongiorno, tanto complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. È diverso tempo che ascolto e non mi ero riuscito di prendere la linea. Dunque, io sono un tifoso della Fiorentina. Sì. E mi dispiacerebbe se dassero via Jovetic, però con una cifra del genere si potrebbe anche fare e sistemare la cosa, qualche giocatore insomma un po' discreto. E poi l'affare Conte, ora sarà un po' noioso, ma mi sembra che Conte la faccia un po' troppo lunga con questi 10 mesi, perché il suo vice ha trattato, gli è stato dato 6 mesi e è stato zitto, quindi un po' di colpa ce l'hanno, che mi sembra. Un po' di colpa ce l'hanno, ognuno ha quella che si sente addosso. Evidentemente Conte sente di non averne nell'ambito di un processo che è quello sportivo, ma qui è tardi per tornare su questi argomenti, di un processo sportivo che somiglia a una, così, a una recita di teatro, non tanto. No, è giusto quello che tu hai detto la settimana scorsa, e ti ho ascoltato. Cioè è un processo creato su basi e per trattare situazioni che non sono quelle attuali, che sono molto più vicine a situazioni penali, eccetera. Non ci sono gli strumenti, dunque vale la pena di non perdere molto altro tempo. Pierluigi da Rimini, poi andiamo a casa. Dica. Sì, pronto, buon pomeriggio. Volevo chiedere. Un parere tecnico, detto della Juve che si è rinforzata ed è ancora la squadra da battere, del Milan che al contrario non sta ricostruendo, chi vedete come principale antagonista della Juventus per il campionato? La Juventus stessa, perché solo la Juventus può buttare via questo scudetto. Beh, presto per dirlo, c'è la Champions. Vabbè. Pensala come vuoi. È prestino, Non ne vedo altre, sinceramente. No, secondo me Napoli, Roma, l'Inter ha altre incognite, però... Si possono creare degli spiragli e degli spazi. Se la Juventus butta via lo scudetto, qualcun altro lo prende. Secondo me alternative non ce ne sono, e mi dispiace anche per i miei amici qua sotto che prima hanno visto il Barcellona giocare un po' come il azzurro. Ragazzi, ci sentiamo domani. Massimo Calegari ci verrà a trovare molto presto e spesso, io spero. Con grande piacere, sicuramente. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 3 con A Tempo di Sport. Naturalmente io ringrazio Carmelo Lauricella in regia e Michele Goldoni in redazione. A domani.